Dio mi aiuti. Ma te ne immagini a quello che di Cogio, di Nuoro, gli hanno dato il mio vecchio nominativo, IS0 BCR. Ma te ne immagini, cazzo. Non sei contento? Per niente, per niente. Perché c'ho ancora qua c'è lei, mi stanno arrivando IS0 BCR, fate il conto. Ascolta, dammi un controllo di Santiago qua. 9.50, sì. Non c'è problema, fortissimo. Meno che tu, 9.50, più che 9.60. E non fottene, oramai, con queste nuove... con questi nuovi lavori che abbiamo fatto. Non è forte che stai arrivando a Fabri. Ma io, ma DDL è il tuo? Sì, DDL. Fai quello che ti piace, quando vuoi, io ce l'ho accesa la radio e non c'è problema. cambiato, scusate se non ho fatto la bussata. Luca, non è ancora arrivata la seconda cosa, non so come mai, sicuramente arriverà domani mattina, però se vuoi passare a prenderti questa perché ti è utile, dimmi tu. Tutto il resto. Come arriva, mi dai tutto, dai. Se così faccio tutto un viaggio. Vuoi, non c'è problema. Quante gherese? Fabri. Adesso facciamo una prova, due minuti e non lo so. Quanto facciamo? Misurazione a quella radio. Lui è uscito. Ce l'ho sapete. Mamma mia, guerra. Mi ha fatto buono questo bacio. Per carità. Fra 5 minuti. Luca, ti è piaciuta la foto con Lidl? La foto con Lidl. Aspetta, Luca, non lo sento, ripeti, scusa. Se ti è piaciuta la foto con Lidl Tony? Sì, Cazzo, era una mummia. Una mummia? Cazzo, perché mi è rincoglionito forte, ha problemi di diabete. Proprio l'hanno messa, l'hanno seduta in una sedia, a un certo punto quando sono arrivato gli ho chiesto appunto la possibilità di farmi una foto, ma per ridere, perché sapevo che avrebbe fatto ridere gli amici, e che sembrava che si stesse svegliando dalla catalessi. Ha fatto sì, ha improvvisato questo sorriso che poi ho visto nella foto, ma è completamente ricoglionito. Resort, che è una specie di mega villaggio turistico dove davvero non fai niente dalla mattina alla sera, niente nel senso che ti devi solo divertire, è tutto all inclusive, per cui alla fine non paghi niente ed è tutto compreso. 5 giorni, una delle serate c'era lui che è completamente ricoglionito. Ma ti credo. Vabbè, comunque, anche la sua età, Come? Sì, quanto è la sua età? Non negativo, lui, sei troppo vicino, sei troppo potente, un po' ti mangi la voce, dimmi. Detto che ha anche la sua età, quanti anni ha? Sì, adesso, Ma cosa succede qua? Prova adesso. Come vai? Ma stavo qua questa radio? No, stai scendendo, vabbè, qua ti vedo sempre a fondo scala. Vabbè, un attimo, un po'. Scusatemi un attimino di quel Rex che è arrivata gente, riprendo fra un attimo. Niente. Sono fracassato al ballo, ma non c'è la comunione, un altro, ma Va bene così, non c'è problema. Lo sto dicendo. Non sono abuso. Non sono abuso. Mi chiamate già, mi sento lei. Va bene.